Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Questa sera parliamo di psicoeconomia, di neuroeconomia, e lo facciamo con Matteo Motterlini. Buonasera Motterlini. Buonasera a tutti. Motterlini è filosofo, neuroeconomista, ordinario di filosofia della scienza all'Università Vita e Salute di San Raffaele, ha scritto numerosi libri, è collaboratore del Sole 24 Ore e ha scritto l'ultimo libro, La psicoeconomia di Charlie Brown, strategie per una società più felice, edito da Rizzoli. È la psicoeconomia, se magari ci spieghi cosa vuol dire questo termine. La psicoeconomia cerca di studiare le decisioni economiche e finanziarie delle persone partendo da come le persone sono effettivamente fatte, quindi da come prendiamo le nostre decisioni sul serio, davvero, nel mondo reale, e non come dovremmo farle se fossimo gli agenti perfetti, a razionalità perfetta, descritti dalla teoria economica. Quindi tipicamente un psicoeconomista, un neuroeconomista, studia il cervello, i correlati neurali, o più semplicemente cosa si attiva nella nostra mente quando noi prendiamo decisioni economico-finanziarie, e non sempre le prendiamo in modo razionale. Anzi, la cosa interessante è che spesso le prendiamo in modo irrazionale, e che l'irrazionalità può essere studiata in modo rigoroso, verrebbe da dire in modo razionale, attraverso l'osservazione e l'esperimento. Ecco, come diceva Anletto, c'è del metodo anche nella follia. Ma allora, spiegata che la psicoeconomia in fondo si occupa delle persone, delle scelte delle persone, da che cosa derivano le scelte delle persone, che ci azzecca Charlie Brown? E ci azzecca Charlie Brown, ma se vuole con una provocazione molto più dell'homo economicus, perché Charlie Brown tende a somigliare a noi molto di più di quanto assomigli magari il modello descritto nei manuali degli economisti. Perché? Perché, come diceva lei, c'è del metodo nella nostra follia, o per dirla con Charlie Brown, quando incontra la ragazzina dai capelli rossi ed è molto confuso e interdetto perché è molto timido, commenta disperato tra sé e sé: la mia testa è calda e stupida. Ora, la testa di molti di noi, quando dobbiamo prendere decisioni, è calda e stupida come quella di Charlie Brown, ma la cosa interessante è che c'è un metodo nella nostra stupidità. Quindi l'irrazionalità è sempre più investigata dagli scienziati del comportamento, dagli scienziati della decisione, dalle cosiddette scienze cognitive e neuroscienze, e oggi possiamo fare modelli a razionalità limitata e tenere conto di dove ci porta la nostra irrazionalità in modo prevedibile e le nostre emozioni. Ecco, nel libro ci sono molti esempi appunto che si rifanno alle strisce di Charlie Brown, a Snoopy, alla sua saggezza in fondo, una saggezza semplice, una saggezza delle cose immediate. Forse bisogna ritornare un po' all'intuizione più che all'intelligenza, Motterlini? Sì e no, nel senso che io vorrei ritornare all'intelligenza e non alla razionalità, dove la nostra intelligenza è più comprensiva. E ritornare alle intuizioni fino a un certo punto, occorre rimettere al centro, secondo me, l'essere umano. Perché la vince Charlie Brown? La vince Charlie Brown perché noi vogliamo un'economia più umana, un'economia più terrena, un'economia più terrestre. Io dico un'economia più funzionale ai nostri problemi e quindi più funzionante, perché basata sull'evidenza di come effettivamente siamo, e noi siamo anche intuizione ed emozione, ma basata sull'evidenza, perché in tutta la seconda parte del libro, anche riguardo ad esempi molto pratici, faccio vedere come possiamo avere politiche pubbliche basate sull'evidenza, cioè politiche che noi possiamo controllare nella loro efficacia. Quindi politiche pubbliche non basate su ideologia o, ancora peggio, demagogia, o su facciamo così perché si è sempre fatto, ma interventi di politica pubblica che funzionano perché li abbiamo potuto sperimentare, abbiamo raccolto i dati e ci facciamo basare sull'evidenza. Questo va bene, questo vale per la raccolta fiscale, per i problemi come la tax compliance, come il risparmio nei consumi energetici, come che cosa mangiamo, come le etichette delle lampadine, degli elettrodomestici, o come le etichette dei cibi, cioè tutto quello che condiziona le nostre decisioni, che vorrei avvicinare alle decisioni che prendiamo tutti noi, tutti i giorni, in modo che di progettare ambienti di scelta che ci aiutino a prendere decisioni più virtuose. Ecco, e qui veniamo appunto al sottotitolo del libro, strategie per una società più felice, quindi una società che sia capace più di rispondere alle esigenze della persona, in fondo anche con scelte che non siano rivoluzionarie, ma con scelte morbide, scelte capaci di avviare un processo diverso rispetto a quelli attuali. Io parlo di nudge, di spinte gentile, secondo quello che è un libro molto influente scritto da un giurista, un economista americano, che è stata anche la Bibbia di Obama. Si tratta di un approccio che, perché è più dolce, perché è più gentile? Perché come facciamo a fare delle cose che funzionino in questo mondo, aiutare le persone a prendere decisioni migliori, se non mettiamo al centro dei modelli degli agenti che sono in carne ed ossa, esattamente come siamo fatti noi, con le nostre vulnerabilità, con le nostre fragilità, con i nostri limiti? Allora ecco che se noi mettiamo al centro dei nostri modelli degli agenti più terreni, psicologicamente raffinati, possiamo anche progettare degli ambienti di scelta che ci spingono gentilmente verso la direzione giusta. Faccio un esempio molto banale, se no non si capisce che cosa sto dicendo. Noi vogliamo che i nostri bambini si nutrano meglio e possiamo disporre i piatti nelle mense scolastiche in modo che loro mangino più, come dire, macedonia, insalata rispetto a torta al cioccolato e patatine fritte, quello che desideriamo tutti, ma non vogliamo impedire loro che mangino le cose di cui sono più golosi, ma magari potremmo disporre i piatti in una mensa scolastica in modo che sia più facile per loro e quindi spingere gentilmente a mangiare cibi più sani. Come? Per esempio mettendo sotto i loro occhi i cibi più virtuosi e un po' più lontano, 25 centimetri più lontano, i cibi meno virtuosi. E si è visto dai dati, raccogliendo i dati, che bastano 25 centimetri più lontano per migliorare la dieta delle persone del 15%. Perché non farlo? Perché non spingere gentilmente le persone in questo senso? Ecco, questo appunto è il problema, perché attuare delle politiche, diciamo così, che possono essere di condivisione, di sollecitazione e non di imposizione. Molto spesso si pensa all'etica come qualcosa che può essere imposta, come delle regole, come dei dogmi. Invece bisogna fare forse un processo di maggiore attenzione verso i piccoli passi che si possono fare, però piccoli passi che poi fatti da tante persone all'interno del mercato possono andare nella direzione di rendere una società più efficiente, forse, se non più felice. Piccole spinte per grandi cambiamenti. E poi quello che dici è giustissimo, questo approccio i suoi fautori l'hanno chiamato paternalismo libertario, che può sembrare uno stimolo, ma non è solo paternalista, non è un'imposizione, non è che decidiamo cos'è giusto e quindi cerchiamo di farlo fare a tutti. È libertario nella misura in cui la libertà di scelta è mantenuta, ma si incornicia il problema di scelta, si creano degli ambienti di scelta, si fa un'architettura della scelta in modo da indirizzare le persone verso la scelta più virtuosa, anche se poi ciascuno può fare come gli pare. Certo, indubbiamente può fare come vuoi fare, però deve essere informato di cosa succede se fa certe scelte rispetto ad altre. E qui entra in gioco anche la capacità dell'informazione di dare i messaggi giusti e la capacità poi anche della politica di indirizzare i messaggi giusti. Questa è appunto una scelta politica, è chiaramente una scelta politica, oggi ci sono degli strumenti per farlo, se c'è la volontà di farlo possiamo essere molto efficaci, perché conosciamo molto, sempre meglio appunto psicoeconomia, come la mente prende le nostre decisioni economiche e finanziarie. Quindi oggi abbiamo degli strumenti che se vogliamo utilizzare a fin di bene siamo pronti ad applicare per rendere anche le politiche pubbliche e non solo l'informazione molto più efficaci di quella che è stata fino ad oggi. Si tratta appunto di avere la volontà di farlo. Ecco, a questo punto torniamo all'inizio, torniamo a parlare di razionalità. Il libro inizia proprio parlando del fatto che gli economisti non hanno previsto la crisi, ma non è questa la loro colpa è di avere avuto la capacità di interpretare la crisi. Però anche la razionalità, quando noi parliamo di razionalità, la razionalità è una creatura in fondo umana, non è scritta nel marmo, non è qualcosa che ci discende da regole dall'alto. Quindi anche una certa immagine della razionalità è un'immagine che discende da una visione soggettiva delle persone. Come sciogliere questo nodo? Se la razionalità è oggettiva o soggettiva? Ma questo è un punto molto raffinato, ma io le spiegherei questo in modo molto pragmatico, nel senso che se noi fossimo soltanto, fate attenzione, se noi fossimo soltanto corteccia prefrontale, cioè quella parte del nostro cervello deputata a svolgere i compiti cognitivi più alti, la parte del cervello che per intenderci ci distingue da rettili e mammiferi, quella che si è sviluppata dopo nell'evoluzione della specie, quindi quella che abbiamo davanti sulla fronte, quella che ci fa fare i calcoli logici, matematici, il calcolo della probabilità, allora l'economia dei manuali sarebbe una bellissima teoria, una teoria molto corretta anche del mondo reale. Ma noi non siamo soltanto corteccia prefrontale, noi siamo anche sistema limbico, noi siamo anche tutte le parti interne del nostro cervello che invece condividiamo con rettili e mammiferi. Quindi siamo anche dei percorsi, la via sottocorticale molto veloce, che è appunto quella dei nostri circuiti emotivi. E siccome noi siamo tutta questa cosa qua, siamo corteccia prefrontale ma anche sistema limbico, ecco allora che l'economia dei manuali, che considera soltanto la razionalità, non riesce a catturare perfettamente il comportamento nel mondo reale. Ma oggi conosciamo sempre meglio i percorsi della razionalità e delle nostre emozioni per provare i cosiddetti animal spirits di cui parlava già John Maynard Keynes, che possiamo provare a incorporarli nei nostri modelli. Certo, non saranno modelli così generali come quelli della teoria neoclassica, ma magari saranno modelli che, come diceva lei prima, piccoli interventi, piccoli passi che funzionano in alcuni casi molto bene nel concreto e nel particolare. Oggi abbiamo questi strumenti e secondo me nel libro li illustro in molti casi, in molti casi concreti, e forse sarebbe arrivato il momento di iniziare a utilizzarli, come peraltro fanno già negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Canada, in Australia, Singapore, e recentemente hanno costituito anche una unit nel governo tedesco, lo stanno facendo anche in Francia, e quindi ormai il mondo sta andando in questa direzione, con politiche efficaci che sono oltretutto low cost, e anche per questo forse in questo momento piacciono così tanto. Ecco, indubbiamente piacciono tanto, come possono piacere appunto le strisce di Peanuts, come le strisce di Charlie Brown, che fanno certamente riflettere, fanno anche divertire. In fondo anche nella realtà, è una realtà che ha certamente tanti problemi, però possiamo trovare il modo di, in questa realtà, di avere delle formule, dei modi, dei metodi anche per cercare qualcosa che ci soddisfi non solo da un punto di vista quantitativo, ma soprattutto qualitativo. In fondo la qualità dell'economia che va posta in primo piano. Ma lei fa riferimento ai Peanuts e a Charlie Brown, ha capito che il mio messaggio è semplice, volutamente semplice, ma forse non così banale. E allora ecco che i Peanuts, con le loro strisce di grandissima qualità, di grandissima raffinatezza psicologica, che catturano appunto in pochissime strisce dei tipi compartimentali che sono ognuno di noi, diventano i miei compagni di viaggio oppure i miei compagni di gioco ideale per illustrare alcune tesi che sono interdisciplinare e magari non notissime nel nostro paese, e cerco di farlo con il divertimento che deve provare il lettore quando appunto legge un libro. E quindi spero che Charlie Brown faccia il suo uso, l'uso di rendere il libro divertente e di far arrivare un messaggio che è semplice ma non banale. Certamente, un messaggio di un'economia in fondo che è capace di affrontare realisticamente i problemi della persona, tenendo conto che la persona è una grande ricchezza fatta di tante cose, di tanti elementi, di tante cortecce cerebrali, di tante emozioni, di tanti sentimenti e comunque di tanti valori. Grazie a Matteo Moterlini per essere stato con noi questa sera. Abbiamo parlato del suo libro, La psicoeconomia di Charlie Brown, strategie per una società più felice, edito da Rizzoli. Sono 268 pagine per 17 euro. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, e l'appuntamento con Economia in Pagine è per sabato prossimo.